E l'arcino mi marita e fatta ti cari mangiai, per dispetti me mungere, su pocaccioni mi colcai. Si può muti mariti Antoni Mina, e muti levina Antoni Minara, e non mi importa che non avevo ta, basta che andavo e tu di mana. Vivi Marina quando sono come la scalora, e vanati sotto maggio che mondano malanova. Vivi Marina quando tu come pire bene, marito caro non è te ti uno patatello. Si può mutire un lico e la fima na come, e c'è una cattara tinta che ti tinti so come. La fima na è come luci per un fernale, e è brutto luci rocco e non brutto temporale, come luci rocco e non brutto temporale. A ci arriva la chatta, vesti non una barbaccia, e si dice ma giorno ognuno, pita me dietro un po' fattoni, e si dice ognuno patti, pita ma ci canati tre. Alla chatta manco un giorno, a te quattro, ma c'è cama, sarò domenico, mamma.